Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Federico, come si dice quando un luogo è brutto e sporco? Si dice che sembra una stalla. Una volta, adesso non è più così. Fra le innovazioni legate all'agricoltura che Food Lab vi racconta c'è anche questa, le stalle 2.0. Incominciamo. Chiara è andata in una super stalla in provincia di Lodi e adesso ce la racconta. Federico, mi trovo al Parco Tecnologico di Lodi e sono in compagnia di Stefano Biffani, che è responsabile del Dairy Farm. Stefano, il Dairy Farm è un progetto che voi avete messo a punto che presenta un po' le innovazioni in stalla, cioè all'interno di un allevamento di bovini, in questo caso di vacche da latte, per una zootecnia sostenibile. Ecco, ti chiedo intanto di cominciare ad illustrarci quali possono essere le tecnologie per rendere l'allevamento sostenibile, ma allo stesso tempo con un occhio di riguardo chiaramente alla salute e al benessere degli animali. Partiamo forse dall'elemento principale, che è l'alimentazione di questi animali. Beh, indubbiamente anche nella zootecnia la tecnologia sta diventando fondamentale in tutti i suoi aspetti. Ci potrebbero essere tantissimi esempi che io potrei farvi adesso per farvi capire come la tecnologia impatta sulla gestione di un'azienda da latte del secolo XXI. Ad esempio, tu hai citato l'alimentazione. Gli animali, per poter produrre bene, devono innanzitutto alimentarsi bene, come tutti gli esseri umani, come anche un uomo ha bisogno della dieta giusta, anche le bovine da latte hanno bisogno di una dieta giusta. E per averla in maniera giusta, usiamo tutta una serie di tecnologie che ci permettono di verificare la qualità dell'alimento in tempo reale, ci permettono di verificare su un certo animale quanto alimento io gli devo dare, e quindi ci permettono di gestire al meglio e di mettere l'animale nelle condizioni migliori per poter produrre in maniera ottimale, quindi con un minor dispendio energetico, con un minore inquinamento e soprattutto con un animale che sta meglio. Possiamo dire che anche per gli animali facciamo delle diete su misura. Delle diete personalizzate. Ci si sta occupando tanto anche di nutrigenomica per quanto riguarda gli esseri umani, cioè si sta andando verso un'alimentazione molto personalizzata anche dal punto di vista, tenendo conto della genetica, cioè per gli esseri umani se ci sono intolleranze o allergie e così via. Anche per gli animali c'è questo tipo di approccio? Sicuramente c'è anche negli animali. A qualcuno forse può sembrare strano, ma ci sono diversi progetti anche qui al Parco Tecnologico, ne stiamo portando avanti alcuni, che cercano di guardare proprio come la struttura genetica dei nostri animali impatta sulla capacità di utilizzare in un certo modo alcuni alimenti e meglio altri. Quindi sì, in effetti anche per i nostri animali c'è la nutrigenomica, e quindi questo vi fa capire che comunque l'interesse degli allevatori per avere un animale che stia bene e che funzioni al meglio è molto elevato, perché comunque considerate che sono studi che hanno un certo costo e quindi si investono dei soldi. Ecco, tu dici animali che stiano bene, qui si toccano due punti, quello della salute e quello del benessere dell'animale. Le tecnologie stanno andando in questo senso. Allora, partiamo dalla salute. Ecco, ci sono una serie di tecnologie di innovazione che registrano proprio i parametri della salute. Ci fai qualche esempio magari che qui state sperimentando? Guarda, anche in questo caso le tecnologie sono diverse. Un esempio secondo me molto carino è quello che riguarda gli animali giovani, quindi i vitelli. Ecco, i vitelli rappresentano il futuro di un'azienda da latte e quindi deve essere data grossa attenzione alla loro salute. E in Belgio uno studente di un'università belga ha sviluppato un sistema di monitoraggio delle tossi nei vitelli. La tosse proprio, come noi siamo abituati a pensare, così. Esattamente, esattamente. E quindi diciamo che il concetto è molto semplice. Nel momento in cui io comincio a verificare un aumento dei colpi di tosse in un gruppo di animali, questo mi fa venire il dubbio che ci sia qualcosa che non va. E quindi ecco che questo sistema totalmente computerizzato registra i rumori all'interno di un allevamento e è collegata ad internet, e quindi in tempo reale l'allevatore può vedere se può ascoltare quello che succede nel suo allevamento, e nel momento in cui il sistema identifica una variazione anomala l'allevatore può intervenire con le necessità del caso. Ecco, tanto per dare un'idea, qui insomma nelle vostre aziende agricole, io le ho appena viste, esistono proprio dei microfoni, dei sensori installati proprio vicino agli alloggi dei vitelli, appunto, che possano registrare 24 ore su 24 questo tipo di parametro. Una tosse anomala è indice di qualcosa e lì è l'allevatore che interviene. Esattamente, esattamente. Noi stiamo portando avanti con questa compagnia belga con questa prova sperimentale, perché il sistema è già applicato a livello commerciale sui suini e noi invece stiamo, come Parco Tecnologico e Università di Milano, stiamo invece portando avanti questa sperimentazione anche sui vitelli. E quindi in un'azienda a pochi chilometri da qui abbiamo installato questo sistema che è semplicissimo, sono proprio dei microfoni che registrano tutti i rumori che questi piccoli nostri amici fanno durante l'arco della giornata e della notte. Ecco, un po' rapidamente parliamo del benessere degli animali. Esistono dei collari cosiddetti intelligenti che registrano una serie di parametri, addirittura sono in grado di essere dotati di GPS e quindi registrare proprio il movimento degli animali per capire se gli animali stanno bene, se si muovono, in quale posizione si muovono nella stalla. Esatto, anche qui è giustissimo quello che dice, esistono ormai dei sensori che possono darci la possibilità di misurare tantissimi parametri sugli animali e quindi con questi parametri noi siamo in grado di verificare in tempo reale se stanno bene oppure no. Tu hai parlato per esempio del movimento. Il movimento degli animali è fondamentale perché ci dice tanto su quello, su come sta un animale. Ci dice se l'animale si muove troppo è probabile che abbia un problema. Se l'animale anche sta troppo fermo vuol dire che paradossalmente potrebbe avere qualche altro problema, o anche magari se io ho un sistema GPS collegato con la posizione dell'animale io potrei vedere che in una zona della mia stalla l'animale non va mai. Allora mi domando perché non va mai in quella zona, probabilmente perché o è troppo fredda o è troppo calda o ci sono delle condizioni che non sono idonee per l'animale. E quindi gli animali comunque sentono queste cose, le vedono, e se noi abbiamo dei sistemi che ci possono aiutare a capire meglio quello che un animale sta sentendo, ben venga. Grazie Stefano, davvero buon lavoro e buona ricerca qui al parco. Grazie a voi per averci visitato, grazie. Il sensore per la tosse è strepitoso. Ti è piaciuto? Devo dire moltissimo. Che vederlo dal vivo è stato molto interessante e anche un po' impressionante. Comunque va bene. Peccato che non c'ero. Finisce qui Food Lab per quest'oggi. Alla prossima.